24 mattino. Sono le 8 e 17 minuti, ben ritrovati a 24 mattino, il numero per i vostri messaggi è 349-238-6666, parliamo di economia. Soldi e dintorni. Deborah Rosciani, eccoci qua, ben ritrovata. Grazie Alessandro, buongiorno a tutti, buona giornata. Allora, oggi come ampiamente annunciato, anche da GR, insomma monitoriamo la benzina. La benzina, il cui costo fa arrabbiare e infuriare tutti, ovviamente, come sempre. In particolar modo gli automobilisti, quelli che viaggiano molto, certo. Anche quelli che viaggiano poco, non è che loro non si debbano arrabbiare. E quindi se insomma, le dinamiche non parliamo convincono. di questo costo, di questo prezzo, sì. che sale. Peraltro, guarda, una cosa strana, perché con le mie collaboratrici in redazione stavamo ipotizzando di dedicarci a questo argomento già dall'inizio della settimana, quando avevamo notato, anzi in realtà è dalla fine di aprile che questa tendenza la stiamo notando, che il petrolio stava ricominciando a salire, parliamo ovviamente delle quotazioni internazionali, e quindi stavamo un po' monitorando quale fosse l'effetto dei prezzi ai distributori di benzina. E poi ci siamo dette, vabbè, aspettiamo un attimo, magari chissà ritorna a $60, così scherzandoci sopra, e quando toccherà i $60 rifaremo l'argomento, lo ritratteremo per i nostri ascoltatori. Neanche a dirlo, ieri pomeriggio la quotazione dei $60 al barile è stata ritoccata per una serie di dinamiche internazionali che poi adesso magari vi spiegheremo, e ovviamente c'è stata l'immediata raffica di rincari per i carburanti, che era iniziata appunto da qualche giorno, e ieri anche le due compagnie che fino ad ora si erano mantenute a distanza dalle altre hanno ritoccato i prezzi consigliati ai gestori sia per la verde che per il diesel. E insomma, ci risiamo. Buongiorno a Pasquale De Vita, presidente dell'Unione Petrolifera Italiana. Buongiorno. Dottor De Vita, mi tolgo una curiosità, ma lei mediamente quante volte l'anno viene interpellato per commentare questo tema? Ma dipende dal momento, vedi, adesso in questo periodo recente c'è stato un periodo di estrema calma, perché il prezzo era sceso di molto, quindi la tensione era diminuita e quindi andava praticamente tutto secondo, non dico il meglio, ma il meno peggio. È chiaro che nel momento in cui si rimpenna il prezzo e quindi comincia a diventare pesante il dover andare a fare un rifornimento, perché c'è un certo numero di centesimi in più, risorge e riesplode il problema. In genere le aziende petrolifere vengono un po' ritenute, quantomeno a monte, le responsabili delle speculazioni. Ci ha stupito un po' la sua dichiarazione di ieri, rilasciata a margine del forum della pubblica amministrazione a Roma, e lei proprio ha detto: riteniamo che ci sia la ripresa di un'attività speculativa sul greggio nei mercati. Certo. Perché si dice convinto di questo? Ma vede, su tutti i mercati, su tutti i prodotti, soprattutto per le materie prime, ci sono delle leggi molto semplici che regolano un po' l'andamento dei prezzi. Nel momento in cui c'è una grande richiesta e una scarsa offerta, i prezzi salgono. Nel momento in cui c'è una scarsa domanda e invece una buona offerta, i prezzi o scendono o restano fermi. Noi in questo momento, nel mondo, quindi parliamo di una situazione generale, abbiamo una domanda molto fiacca, quindi scarsa domanda, e abbiamo un eccesso di offerta. Sarebbero le condizioni ideali per mantenere un prezzo basso. Perché io parlo di speculazione? Perché già nell'altra tornata, diciamo così, che poi si è fermata come impennata dei prezzi ai famosi $147 di luglio scorso, non era il mercato del greggio o non era la domanda e l'offerta che spingevano in alto il prezzo, era la speculazione finanziaria che avviene sui mercati del greggio. Qui ci sono istituti, ci sono fondi, ci sono operatori finanziari che ormai da anni comprano greggio, ma comprano la carta, cioè il documento, il certificato che dà diritto ad avere una nave, e lo fanno passare di mano 10 volte. Perché in quel momento quello è il momento per cercare di impennare il prezzo e fare speculazione. Ed è la situazione alla quale le società petrolifere, questo a chiarimento, se no dici ma come, tu sei rappresentante, dici, quindi le società petrolifere sono in fondo alla filiera, quindi comprano poi a quel prezzo. Quindi anche voi subite questa situazione, ci sta dicendo. Quindi gli unici che hanno un vantaggio, bisogna dire, da tutto questo sono i paesi produttori, perché quel prezzo speculativo, perlomeno che è salito così in maniera speculativa, e poi il prezzo base per comprare il greggio tutti i giorni. Ecco, detto questo, anche se lei ci sta spiegando che l'industria petrolifera in qualche maniera subisce anche quelle che sono poi le dinamiche un po' distorte a volte a seconda delle fasi economiche, certo, delle dinamiche, certo, del mercato, in ogni caso poi i consumatori subiscono tutta questa faccenda quando devono andare a fare rifornimento. E vado a questo punto ovviamente perché un po' ai consumatori ci rivolgiamo in questa fascia del mattino, ma anche perché le associazioni dei consumatori ovviamente, monitorando questa tendenza di questi giorni, hanno subito sollevato le polemiche, notando che cosa? Che in procinto dell'estate, in procinto anche ovviamente di una stagione in cui i fine settimana vedranno le autostrade particolarmente trafficate, ovviamente la benzina costa di più. Questo fattore della stagionalità lei come lo vede? Insomma, hanno ragione le associazioni dei consumatori un pochino a pensarla così? In maniera più assoluta, no. Le associazioni dei consumatori dovrebbero imparare a fare due cose: a non fare demagogia e a imparare a fare i conti. Però il dubbio viene, dottor De Vita. No, così è, guardi, perché in questo momento, se andiamo a prendere gli ultimi 10 giorni, per esempio, dove c'è stata questa impennata, l'impennata dei prezzi sul mercato internazionale è superiore all'aumento dei prezzi che c'è stato in Italia, quindi una parte è stata assorbita dalle aziende. Facciano bene i conti. Noi abbiamo delle associazioni di consumatori che purtroppo lavorano a spanne e lavorano a sensazioni. Io questo lo dico adesso che non ci sono, ma lo dico anche quando, esatto, ci sono. Esatto, anche perché oggi poi non ci sono, non si possono difendere, anche se lo fanno in maniera sempre molto forte. Tanto ci troviamo in dibattiti uno di fronte all'altro, glielo dico tranquillamente. Non è così, non possono diffondere notizie di questo tipo che poi allarmano le persone e vanno forse nella strada che la gente amerebbe avere, c'è un colpevole, lo prendiamo. Qui il mercato internazionale si è rimesso in moto. Io ho cercato di spiegare che non c'è un motivo vero, mm-hmm, e c'è un motivo speculativo. Beh, anche se ieri un po', insomma, questo ritocco a $60 è stato attribuito anche al fatto che i dati sull'importazione cinese di petrolio in aprile hanno registrato una forte fiammata, quindi quando si mette in moto il secondo consumatore mondiale di energia è chiaro che poi le dinamiche di prezzo subiscono conseguenze. Sono piccoli indici che poi nella sostanza toccano poco, ma sono l'occasione per saltare su. Ma se lei qualche volta vede che l'indice americano dell'occupazione dell'Oregon è basso e la borsa magari scende, no? Così non c'entra niente, però sono tutti appigli qualche volta in una tendenza che invece è una tendenza che sta andando, per quello che riguarda il greggio, ad una velocità e una direzione eccessiva per quella che è la situazione. Ecco, però, dottor De Vita, io stavo controllando anche un'altra, un vostro comunicato stampa recente, dove avete indicato il livello appunto di prezzi di benzina verde e diesel, e avete detto appunto che siamo ritornati per il diesel ai livelli del dicembre 2008, per la benzina non si vedeva invece quota 1,260 euro dalla fine di ottobre. In quei giorni però il petrolio era quotato sui listini internazionali intorno ai $65 al barile, era più alto che prezzi erano giustificati. Oggi siamo a $60, quindi dovrebbe costare comunque un po' meno la benzina, o no? No, anche qui bisogna chiarirsi subito. Una cosa è il prezzo del greggio, una cosa è il prezzo dei prodotti finiti. Perché il mercato dei prodotti finiti ha una tendenza di fondo simile a quella del greggio, ma non ha lo stesso andamento. Le spiego anche perché rapidamente. Il greggio sta a $60, la benzina dovrebbe stare a X dollari, ma gli Stati Uniti stanno tirando benzina perché per esempio c'è la festa del coso, ci sta il weekend lungo, cioè, a quel punto. E però c'è anche il dollaro che scende. Si è fermata una raffineria e il prezzo della benzina sale. E viceversa se invece ce n'è abbondanza. Quindi attenzione a prendere il prezzo del greggio così com'è. Il prezzo del greggio va bene prenderlo come tendenza. Per prendere veramente il prezzo di riferimento bisogna andare sul prezzo dei prodotti. C'è il Platts, un listino pubblicato, lo conosce tutto il mondo. Infatti. Si prende la benzina là sopra, si prende il gasolio, quelli sono i punti di riferimento. Per chiudere con 30, rapidamente perché stiamo chiudendo, grazie. Allora, un terzo punto di riferimento che in Italia mai si è affermato moltissimo, che è la differenza con l'Europa. Quello è l'altro punto di riferimento. E questi sono i tre punti, altri non ce ne sono. Possiamo dare un suggerimento per chiudere ai consumatori per poter risparmiare, dottor De Vita, in qualità di consumatore, lei insomma come... Io mi andrei a cercare il distributore che fa il prezzo migliore, perché c'è una varietà di offerta, una varietà di prezzi che il consumatore diligente sicuramente porta a casa dei vantaggi. Anche se comunque anche intorno alla rete di distribuzione dei carburanti in Italia e la sua inefficienza, tante cose sono state dette, forse qualche cosa in più si potrebbe fare. Dottor De Vita, grazie, buona giornata. Prego, di nuovo, arrivederci. A presto, Alessandro. E allora alle 12 Salvadanai. Alle 12 ritorniamo su un tema che ti rubo, class action. Benissimo, e facciamo ruba, il punto ruba della situazione, visto che tu ne hai parlato settimana scorsa. Ma e certo, io ci ritorno oggi. Le 8:32 minuti, diamo uno sguardo alle notizie in primo piano sull'immigrazione, scontro tra Italia e Nazioni Unite per l'ONU, le persone respinte sui barconi in Libia vanno fatte rientrare, ma Berlusconi replica andremo avanti, il ministro Maroni applica accordi presi da me con la Libia. E oggi alla Camera c'è il voto di fiducia sul disegno di legge sulla sicurezza che prevede tra l'altro l'introduzione del reato di clandestinità e l'allungamento dei tempi di permanenza da 2 a 6 mesi nei centri di identificazione ed espulsione. Giornata nei territori palestinesi oggi per il Papa che è giunto poco fa a Betlemme, ha detto la Santa Sede appoggia il diritto a una sovrana patria palestinese nella terra dei vostri antenati, sicura e in pace con i suoi vicini entro confini internazionalmente riconosciuti. Se non cambiano le regole dal 2010 non parteciperemo al mondiale di Formula 1, l'annuncio è della Ferrari in un comunicato del Consiglio di Amministrazione, la scuderia di Maranello critica la gestione del presidente della federazione Mosley. Infine per il calcio, stasera si assegna la Coppa Italia, nella finale secca si affrontano all'Olimpico di Roma Lazio e Sampdoria, chi vince andrà anche in Coppa UEFA. E allora l'ultima notizia, 8:33 minuti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Come detto parliamo di immigrazione, ma avete sentito le polemiche, l'Italia, l'ONU, le polemiche interne, le questioni dei respingimenti, anche oggi sono i titoli dei giornali. Insomma, gli slogan li avete sentiti. Parliamo invece magari in maniera un po' più, non dico seria, ma in maniera un po' più approfondita di un fenomeno molto molto serio. Io voglio salutare Guido Bolaffi, buongiorno Bolaffi. Buongiorno. Bolaffi tra l'altro è un editorialista, è un esperto di immigrazione internazionale, dal 1994 al 2004 ha lavorato al Ministero sotto vari governi su questo tema, è il direttore di una rivista online, West, che voglio segnalare, insomma ha un biglietto da visita di uno che di immigrazione se ne occupa da un po' di tempo. Per esempio Bolaffi, vogliamo chiarire una volta per tutte un dato, percentualmente gli immigrati cosiddetti clandestini che entrano nel nostro paese, quanti vi entrano con il barcone, cioè con il tema di cui si sta discutendo? Allora, diciamo, l'immigrato clandestino è un termine che ha il suo, come dire, un aggettivo al cui interno ci sono altri aggettivi, ci sono coloro che diventano clandestini ma non lo erano prima, per esempio quelli a cui scade il permesso di soggiorno e non lo rinnovano. Ci sono coloro che hanno una data di scadenza per uscire e non la rispettano, sono quelli che gli americani chiamano gli overstayed, quelli che stanno troppo a lungo del previsto. Ci sono quelli che entrano con il volto coperto, cioè senza farsi riconoscere, e allora questi in gran parte non passano per il mare, passano via terra. In gran parte, cioè che vuol dire? Cioè, per quanto riguarda questi siamo nell'ordine del 90-95%, passano via terra, attraverso gli aeroporti, attraverso i nodi stradali, autostradali. Cioè stiamo parlando quelle dei respingimenti di un 5%. Attenzione, più o meno. Il 5% poi, però, quel 5%, questa è la cosa delicata che apre le questioni di questi giorni, quel 5%, che sempre parliamo di qualche migliaia, decine di migliaia di persone, quel 5% al suo interno però contiene un numero molto molto molto elevato di possibili richiedenti asilo di rifugiati, quindi cerchiamo di far chiarezza. Quindi si parla di un 5% totale dell'immigrazione, ma all'interno quel 5% la densità, la percentuale di possibili richiedenti asilo è molto più alta rispetto a quelli che arrivano per terra, se ho capito bene. Sicuramente. È così. Questo è il punto vero. Insomma, già ci ha dato un dato, cioè stiamo facendo cos'è? Campagna elettorale, insomma, quello che. No. È che è un problema complicato, guardi. Mm-hmm. È un problema che tutti i paesi hanno. Basta ricordare che Clinton, che era un presidente che credo non fosse iscritto a nessun partito etnico o anti-immigrato, quando pescava gli immigrati, Madeleine Albright era il suo ministro degli esteri, quando pescavano gli immigrati che clandestinamente da Cuba andavano verso Miami, se li pescavano nelle acque internazionali, li prendevano con i cutter della Marina, del Guardia Marina, facevano dietro fronte e li riportavano a casa. No, ma che il tema c'è sicuramente. Io dico campagna elettorale perché voglio dire, se anche si risolvesse questo problema, che è un problema grave di racket, di tratta, eccetera, si risolverebbe una piccolissima parte del problema immigrazione clandestina. Ecco, questo intendevo dire. Cioè, però la difficoltà in che cosa consiste? Il nodo dei barconi è emblematico da questo punto di vista. Che tutti gli stati sono posti di fronte a questo dilemma. 20 che potenzialmente hanno il diritto di chiedere asilo possono funzionare da copertura per 180, immaginiamo un barcone di 200 persone, per 180 che non hanno nessun, come dire, nessun titolo a entrare nel territorio. Cioè nazionale. Dobbiamo accoglierli tutti per valutare la posizione di pochi? No, perché quando arrivano, questo è il problema, quando arrivano. Lo sai cosa mi disse il capo dell'immigration americana molti anni fa? Un signore che si chiamava Isunza, quindi non era un proprio un americano non doc, è, non era un WASP. Come appunto, si ma un capo, il capo dell'immigration, dell'Immigration Naturalization Service, si chiamava Isunza, mi disse, caro Boatti, io dissi, ma voi come fate con l'immigrazione clandestina? Lui mi disse, senta, non li faccia partire, se possibile li intercetti, se arrivano se li tiene, precisa la cosa. E quindi, visto che noi siamo anche in collegamento con Guido Ruotolo, collega della stampa dal quale subito vado, lei sui respingimenti, Bolaffi che ne pensa, cioè come li definisce, lei che insomma anche un ruolo politico, strettamente politico, lo ha avuto nel senso al ministero? Ma guardi, i respingimenti è una misura che è presente nell'ordinamento italiano non da oggi né da ieri, ma dall'introduzione della legge, una legge buonissima alla quale io ho partecipato e che difendo per molti aspetti, che è la Turco-Napolitano. È già presente nell'articolo 10 della Turco-Napolitano. Quindi non li vede come una cosa illegale, tra virgolette, si possono fare. Non è uno scandalo. Presentano dei problemi, questo sì. La cosa complicata è che in Italia un problema diventa uno scandalo, e uno scandalo diventa un problema. E questo è sbagliato. E in questo, dico, c'è un po' di campagna elettorale. Guido Ruotolo, buongiorno Guido. Buongiorno a tutti. Sei della stampa, inviato, sei appena tornato dalla Libia. La Libia, e tra l'altro leggo oggi sulla stampa, hai scritto cose molto interessanti, insomma, si ferma una rotta, ecco pronte le altre rotte. Leggo anche che scrivi, l'andrangheta calabrese è già pronta con i suoi uomini a sfruttare le miserie anche di queste persone che a volte cercano veramente una via di fuga da difficoltà nei propri paesi. È così, insomma. Sì, nel senso che esattamente per la prima volta stanno emergendo anche a livello investigativo dei rapporti diretti in prima persona dell'andrangheta nel business, perché quello della tratta di esseri umani è uno dei maggiori business a livello mondiale. Si tratta di organizzazioni transnazionali che lucrano sulla disperazione di milioni di persone che scappano dalla fame, che scappano dalle guerre, dalle violenze, dalle discriminazioni razziali o religiose. Questo è il grande problema, per cui penso che di fronte appunto a questo tipo di portata la discussione anche in Italia credo che sia al di sotto dei problemi, della soluzione dei problemi, perché i flussi migratori sono come un fiume carsico, prima o dopo troveranno altri sbocchi e quindi anche questa, il fenomeno Libia è esploso dopo che è peggiorato, diciamo, ha avuto una dimensione molto più grande dopo che gli spagnoli avevano chiuso le porte d'ingresso dal Marocco, Ceuta e Melilla, poi con i pattugliamenti di Frontex anche la rotta per le Canarie si è bloccata. Adesso la Libia, se funzionerà questo respingimento, questo blocco, chiamiamolo navale, tra la Libia e l'Italia, andranno da altre parti. Esatto, tra l'altro il tema è anche questo, la Libia, visto che si discute, sì. L'ONU dice all'Italia riprendete di quelli mandati in Libia, l'Italia dice controllateli in Libia, l'ONU controlla in Libia, chi ha diritto nel caso, allora il problema è la Libia che non ha firmato la Convenzione di Ginevra, è una matassa difficile da districare. Tu che sei stato lì in Libia, questi immigrati, queste persone che sono tornate, dove sono, che destino presumibile avranno? Si fa molta confusione. In Libia ci sono circa 1,5 milioni di, chiamiamoli, africani, ma non sono solo africani, perché vengono anche dai paesi dell'estremo oriente, perché la Libia è un po' considerata la Svizzera dei paesi rivieraschi. Sta conoscendo uno sviluppo anche urbanistico della città, colpisce in questi giorni Tripoli, i cambiamenti, è una città che si sta ringiovanendo, che sta costruendo nuove sistemazioni urbanistiche e quindi ha bisogno di mano d'opera, come avviene in tutti i paesi anche come il nostro. Ci sono alcuni lavori che i libici non fanno più, come da noi, le badanti piuttosto che i guardiani delle mandrie e così via, li abbiamo ormai appaltati a lavoratori dell'est, così anche in Libia ci sono tutta una serie di lavori che non fanno più i libici. E dunque c'è una grande domanda e offerta di lavoro locale. Dentro questo grande magma che è questa immigrazione presente, ci sono anche, come dire, ingressi di gente, di immigrati criminali, tra virgolette. L'altro giorno appunto autorità libiche mi spiegavano che questi, soprattutto i nigeriani, hanno portato anche la droga in Libia, un fenomeno che non conoscevano, tant'è che ci sarebbero 10.000 tossicodipendenti a Tripoli. Dunque è un fenomeno molto complicato e complesso. Dentro questa vicenda si pone la questione del contrasto. Io dico sempre, visto che seguo anch'io Bolappi da studioso, io da cronista il fenomeno da tanti anni, io faccio questo tipo di considerazione: se noi avessimo 500.000 immigrati che se ne vanno al nord Italia perché vogliono andare in Svizzera, noi che facciamo? Diciamo no, non andate in Svizzera. Ma allora dipende sempre da quale punto di vista si vede il problema. Per esempio Bolaffi, per concludere, vede anche subito il messaggio arriva: ma Milan, cioè che poi sarei io, prenditeli a casa tua, insomma, no? Questo è, che è un po' il motto che lei dice sempre quando scrive anche gli articoli. In realtà c'è questa discrasia per cui la società non li vuole, l'economia per esempio li vuole gli immigrati. L'esame di Ruotolo, che saluto, mi fa piacere di sentire da tanti anni, è perfetta. Ma questa è come tutte le proibizioni, i frutti proibiti. Guardi, 100 anni fa lei avrebbe mai pensato che sarebbe stato possibile importare una macchina senza una tariffa? No. Adesso avverrà con calma, e questo avverrà, che è come è avvenuto con i capitali, le merci, i servizi, il movimento delle persone diventerà un sistema che supererà le proibizioni nazionali. Il problema dell'immigrazione nasce da una contraddizione strutturale. Uno ha il diritto a immigrare, ma non ha il diritto ad immigrare. Questo è il punto del diritto, come dire, del diritto internazionale, che ancora scontra questo elemento, che era consentito fino a che però la globalizzazione non metteva in contatto in tempo reale paesi che avevano distanze fino a 50 anni fa praticamente impensabili da superare. Allora, noi di questo tema torneremo a parlare. Oggi c'è appunto il voto di fiducia alla Camera sul DDL sicurezza, vedremo, insomma, il tema dell'immigrazione ci accompagneremo fino al 6-7 giugno ovviamente per la campagna elettorale. Un dato importante, ripeto, quello dell'inizio, che sono il 5% circa, insomma, come stima, il 5% quelli che arrivano così con i barconi, quelli che fanno più notizia, sono più visibili, sono, e quindi no, fanno sono ovviamente in prima pagina quelli, ma sono il 5%, il 95% dei cosiddetti clandestini arrivano in aereo con permessi poi scaduti e rimangono. Questo lo si tenga sempre bene presente quando si tratta di questo tema. Allora, l'ultima parte di 24 mattino, andiamo a Bolzano, dove qualcuno dice c'è qualche mal di pancia, qualche malumore nelle un po' annose anche tensioni tra la comunità di lingua tedesca e la comunità di lingua italiana. Voglio salutare il vice sindaco di Bolzano, Oswald Delle Costa. Vice sindaco, buongiorno. Buongiorno a lei. Lei è anche dell'SVP, il partito in maggioranza, il partito che da sempre, insomma, governa lì, la Südtirol Volkspartei. Qualcuno ha fatto nascere anche questo insieme di malumori da una sua dichiarazione che lei ha fatto il 25 aprile. So che poi ha chiesto scusa, ma la dichiarazione per gli ascoltatori suonava così: c'è poco da festeggiare il 25 aprile, giornata che credo lei non festeggi, dovremmo festeggiare l'8 settembre, che ricordiamo l'8 settembre 43 è la data in cui, insomma, i nazisti, la Wehrmacht entrò in Südtirol. Una frase un po' pesante, no? Un'uscita un po' pesante, vice sindaco. Assolutamente pesante se fosse stata questa la frase. Non è corretta la frase. Io ho detto, casomai bisognerebbe pensare come liberazione al 8 di settembre, ma io ho fatto solo un cenno a un evento storico, dimostrabile, documentabile con tante fotografie, documenti scritti e filmati, che quel giorno, dopo un ventennio di occupazione fascista che non è andata a favore di nessuno, credo neanche per il resto del territorio italiano. Su questo non ci sono dubbi. Ecco, esatto, e nel quale alla popolazione tedesca era stata negata la scuola tedesca, tutta la cultura tedesca, cantare tedesco in pubblico, addirittura vestire i costumi da sempre, tanto per spiegare, e dopo questi vent'anni, non per liberare il Sud Tirolo, ma le truppe sono entrate per l'evento della caduta di Mussolini, no? Sì, sì. Questo sicuramente è un fatto storico ed era visto dalla popolazione, io se dico popolazione allora almeno il 90%, 85-90% della popolazione, perché una certa percentuale l'aveva visto in modo un po' differente, era stato visto come liberazione dall'oppressione fascista. Insomma, chi vi ha visto un meglio coi tedeschi che con gli italiani l'ha vista questo... male, però lei ha dovuto chiedere scusa, questo in una lettera. Io non ho chiesto scusa per aver citato questo fatto storico, non potrei neanche farlo, perché un fatto storico non posso scusarmi per un fatto storico. Io mi sono scusato solo, e questo l'ho anche dichiarato nella mia dichiarazione, per quello che è sopravvenuto dopo, per una discussione volutamente indirizzata in una certa direzione e che ha toccato qualche sensibilità di una piccola parte della popolazione di allora. Sì. Io dico piccola parte della popolazione di allora, mi riferisco al 43, perché poi nel 45, dopo un anno e mezzo di presenza dell'esercito nazista, anche il resto della popolazione ha visto che una dittatura aveva sostituita l'altra. Ma io mi ero riferito su questo. A un fatto storico, lei dice, un fatto storico incontestabile. Senta, vice sindaco, c'è un altro punto sul quale, per questo si dice un po' i malumori, i mal di pancia. Nei giorni scorsi alla provincia di Bolzano, dove l'SVP ovviamente detiene la maggioranza, è stata votata una mozione, credo voluta da Eva Klotz, o comunque ha accontentato molto Eva Klotz, no? Che è figlia di Georg Klotz, che fu condannato per alcuni attentati dinamitardi negli anni passati, in cui sostanzialmente non si definiscono più terroristi, ma combattenti per la libertà, o meglio, attivisti e non più terroristi, i cosiddetti combattenti per la libertà che fecero alcuni attentati di dinamitardi negli anni 60-70. Lei che ne pensa? È giusto? Qualcuno vuole addirittura la grazia anche per quelle persone che furono condannate. Anche qui bisogna conoscere un po' il retroscena della storia. L'Italia del dopoguerra, del 45 in poi, non si è curata di un trattato internazionale di Parigi del 46, dove l'Italia è stata costretta a dare un'autonomia per la sopravvivenza culturale del elemento tedesco in questa provincia, cioè del gruppo tedesco, e del quale il governo italiano se ne è infischiato, no? Addirittura volevano nel 57 creare un rione nuovo qui a Bolzano per immigrati dal resto del territorio italiano. E allora lì la popolazione si è ribellata nel 57 e nel 59 il governo provinciale, cioè la giunta provinciale, è uscita dalla regione Trentino, dove eravamo assieme proprio per questo motivo. Però vice sindaco, insomma, non ci faccia un trattato di storia, capisco storia è molto importante, però veniamo al punto, insomma. Capisco, ma questo devo dire perché è importante per capire. Cioè, secondo lei chi ha compiuto quegli attentati, che cos'è? È un terrorista? È un attivista per la libertà? Da parte nostra, anche lì bisogna distinguere, perché è inutile buttare in un calderone tutto quanto, perché c'erano diverse epoche dove c'erano atti dinamitari qui da noi. A quelli ai quali si riferisce questa richiesta di adesso del Consiglio Provinciale era il primo gruppo, non il secondo e terzo gruppo, i quali sì hanno sparato contro persone, ma il primo gruppo che ha compiuto gli atti dinamitardi qui in provincia per smuovere un po' l'opinione pubblica non ha attentato a vite. Quindi in quel caso lei non li definirebbe terroristi perché non hanno attentato. Esatto, poi quelli che sono venuti dopo, guardi, c'era immischiato perfino il servizio segreto cecoslovacco. Tanto per dire, non è una cosa tanto semplice questa qui. Per questo io dico, l'incomprensione che qui fra il gruppo tedesco e il gruppo italiano in questa provincia basa in maggior parte alla non conoscenza dei retroscena storici. Questo sì, però lei che ne pensa, vice sindaco, quando qualcuno dice, è arrivato anche Marco Imarisio del Corriere della Sera, si parla di campagna contro gli italiani, magari tra virgolette, ecco, cioè sta uscendo un po' di mal di pancia, no, di tensione, un po' mai sopita forse? No, io dico solo che, guardi, questa tensione non è una tensione venuta fuori adesso, non è vero, questa è una tensione che sotto il tappeto esiste dal 45. Beh, poi. Questo sì, però ecco, allora l'unica soluzione per togliercela di mezzo sarebbe quella di sederci sul tavolo, io questo lo ripeto fino alla nausea e lo ripeto da 20 anni, e per questo i furiosi me tentano di mettermi nell'angolino del nazionalsocialista o del nazionalista, non è vero. Qui o ci sediamo sul tavolo e discutiamo e prendiamo atto degli eventi storici, perché se non si prende atto, se si vuole, no, di questo non parlo, non parlo. Però no, vice sindaco, io devo chiudere, ma magari la richiameremo un'altra volta, mi risponda con un sì o no, ma francamente, ma è distinto di passione, ma Bolzano lei la vorrebbe in Italia o in Austria? Ce lo dica francamente. Guardi, io qua le dico una cosa, tutta la popolazione maggiorenne nel 46 ha fatto una petizione per ritornare all'Austria, perché ecco. Ho capito, oggi, ma siamo oggi, nel 2009. Ecco, oggi siamo nel 2009, dove in Europa speriamo dei confini non si modificano più. E se si rispetta, noi abbiamo un trattato internazionale devo chiudere, vice sindaco, mi dica sì o no, non faccia il diplomatico così, ma di passione, di istinto, la vorrebbe in Austria o in Italia? Va bene. Sono il contrario del diplomatico. Se l'Italia si attiene al trattato che abbiamo firmato fra Austria e Italia, va bene così. Va bene. Se l'Italia non si attiene per forza delle cose, allora si cambia di nuovo. Va bene, va bene. La ringrazio, vice sindaco di Bolzano, Oswald Delle Costa dell'SVP. Ci fermiamo qui ringraziando tutti. Solo il tempo di dire tra poco Giuliano Ferrara e noi ci sentiamo domattina.